Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoy. I rapporti esteriori di Alexei Alexandrovich con la moglie erano gli stessi di prima. L'unica differenza stava nel fatto che egli era ancora più occupato di prima. Come anche negli anni precedenti, all'inizio della primavera era andato all'estero, alle acque, per ristabilire la sua salute ogni anno rovinata dall'intensa fatica invernale, e come al solito era ritornato in luglio e subito, con aumentata energia, si era rimesso al suo lavoro. Come al solito, sua moglie si era trasferita nella dacia ed egli era rimasto a Pietroburgo. Dal tempo della conversazione dopo la serata dalla principessa Terskaya, non aveva più parlato con Anna dei suoi sospetti e della sua gelosia, e quel suo abituale tono di chi recita una parte era quanto mai comodo per gli attuali rapporti con la moglie. Verso la moglie era un po' freddo, come se avesse verso di lei un leggero malcontento per quella prima conversazione notturna che essa aveva respinto. Nei suoi rapporti con lei c'era una sfumatura di dispetto, ma non altro. «Tu non hai voluto avere una spiegazione con me», pareva dire rivolgendosi a lei mentalmente, «tanto peggio per te. Ora sarai tu a pregarmi, ma io non darò spiegazioni. Tanto peggio per te», diceva mentalmente come un uomo il quale abbia vanamente tentato di spegnere un incendio e, infuriandosi per i suoi vani sforzi, dica «allora tientelo, allora brucia». Uomo intelligente e sottile negli affari di Stato, egli non capiva però tutta la follia di un simile atteggiamento verso la moglie. Non lo capiva perché aveva troppa paura di capire la propria attuale situazione e perché aveva chiusa, nascosta e sigillata nella sua anima la cassetta nella quale teneva i sentimenti verso la famiglia, ossia verso la moglie e il figlio. Egli, padre premuroso, sin dalla fine di quell'inverno era diventato particolarmente freddo con il figlio e aveva con lui lo stesso atteggiamento canzonatorio che aveva con la moglie. «Ah, giovanotto!» diceva rivolgendosi al figlio. Quando Alexei Alexandrovich apparve alle corse, Anna era già seduta nella tribuna accanto a Betsy, nella tribuna in cui si riuniva tutta l'alta società. Vide il marito da lontano. Due uomini, il marito e l'amante, erano i due centri della sua vita ed essa ne sentiva la vicinanza senza il soccorso dei sensi esterni. Già da lontano aveva sentito l'avvicinarsi del marito e senza vederlo lo seguì in quelle ondate di folla fra le quali egli si muoveva. Lo vide avvicinarsi alla tribuna, ora rispondendo con indulgenza agli inchini adulatori, ora salutando amichevolmente e distrattamente gli eguali, ora aspettando con desiderio lo sguardo dei potenti del mondo e togliendo il suo gran cappello tondo che gli schiacciava le estremità delle orecchie. Lei conosceva tutti questi modi e le erano tutti odiosi. Unicamente ambizione, unicamente desiderio di riuscire. Ecco tutto quel che c'è nella sua anima, pensava. Mentre i ragionamenti elevati, l'amore per la cultura, la religione, tutto questo non è che uno strumento per riuscire. Quando cominciò la corsa a ostacoli su quattro verste, essa si piegò in avanti e, senza distogliere gli occhi, guardò Vronsky che si avvicinava al cavallo e vi montava, ascoltando nello stesso tempo quell'odiosa, incessante voce del marito. Si torturava di paura per Vronsky, ma ancor più la torturava il suono che le sembrava ininterrotto della sottile voce del marito con le sue intonazioni conosciute. «Sono una donna cattiva, sono una donna perduta», pensava. «Ma non mi piace mentire, non sopporto la menzogna, mentre il cibo suo è la menzogna. Lui sa tutto, vede tutto, ma che cosa sente se può discorrere così tranquillamente? Se lui mi uccidesse, se uccidesse Vronsky, lo stimerei. Ma no, a lui occorrono soltanto la menzogna e il decoro», si diceva Anna, senza sapere che cosa precisamente avrebbe voluto dal marito, come avrebbe voluto vederlo. Non capiva neppure che quella particolare loquacità del marito, che tanto la irritava, era soltanto l'espressione della sua interna angoscia e inquietudine. In quel momento attraversò la tribuna un generale di alta statura. Interrotto il discorso, Alexei Alexandrovich si alzò in fretta ma con dignità e fece un profondo inchino al militare che passava. «Voi non correte?» scherzò con lui il militare. «La mia corsa è più ardua», rispose rispettosamente Alexei Alexandrovich. E benché la risposta non significasse nulla, il militare fece finta d'aver sentito un motto intelligente da una persona intelligente e di aver capito perfettamente. «Ci sono due categorie», ricominciò a dire Alexei Alexandrovich, «gli esecutori e gli spettatori. E l'amore per questi spettacoli è un sicuro segno di basso sviluppo per gli spettatori, sono d'accordo, ma... Principessa, una scommessa?» Si udì dal basso la voce di Stepan Arkadich che si rivolgeva a Betsy. «Per chi tenete?» «Io e Anna siamo per il principe Kuzovlev», rispose Betsy. «Io per Vronsky, un paio di guanti». Ma in quel momento diedero il via ai cavalieri e tutte le conversazioni si interruppero. Anche Alexei Alexandrovich tacque e tutti si alzarono e si rivolsero verso il fossato. Alexei Alexandrovich non si interessava alle corse e perciò non guardava quelli che correvano, ma si mise distrattamente a far vagare sugli spettatori gli occhi stanchi. Il suo sguardo si fermò su Anna. Il viso di lei era pallido e severo. Evidentemente non vedeva nulla e nessuno fuorché uno solo. La sua mano stringeva febbrilmente il ventaglio ed essa non respirava. Egli la guardò e si affrettò a voltarsi per osservare altri visi. «Sì, anche quella signora, eppure le altre sono molto agitate, è molto naturale», si disse Alexei Alexandrovich. Non voleva guardarla, ma il suo sguardo era involontariamente attratto verso di lei. Scrutò nuovamente quel viso, cercando di non leggere ciò che vi era così chiaramente scritto. Solo contro la sua volontà vi leggeva con terrore ciò che non voleva sapere. La prima caduta di Kuzovlev al fosso agitò tutti, ma Alexei Alexandrovich vide chiaramente sul volto pallido, trionfante di Anna che colui che essa guardava non era caduto. Quando, dopo che Maciotin e Vronsky ebbero saltato la grande barriera, l'ufficiale che li seguiva cadde proprio lì, a testa in giù, e si sfracellò a morte, e un mormorio di orrore passò per tutto il pubblico, Alexei Alexandrovich vide che Anna non si era neppure accorta dell'accaduto e faceva fatica a capire di che cosa parlassero intorno. Sempre più spesso e con maggiore ostinazione, egli la scrutava. Anna, tutta assorbita dallo spettacolo di Vronsky che galoppava, sentì lateralmente lo sguardo dei freddi occhi del marito fisso su di lei. Si voltò per un istante, lo guardò interrogativamente e, accigliandosi leggermente, si girò di nuovo. «Ah, che mi importa?» parve dirgli e non lo guardò più nemmeno una volta. Tutti esprimevano ad alta voce la loro disapprovazione. Tutti ripetevano la frase messa in giro da qualcuno: «Ci manca solo il circo con i leoni!» E l'orrore era sentito da tutti, cosicché quando Vronsky cadde e Anna uscì in una forte esclamazione, non vi fu in questo niente di eccezionale. Ma subito dopo, sulla faccia di Anna, avvenne un cambiamento che era ormai positivamente sconveniente. Essa si smarrì completamente. Cominciò a dibattersi come un uccello catturato. Ora voleva alzarsi e andare chissà dove, ora si rivolgeva a Betsy. «Andiamo, andiamo», diceva. Ma Betsy non la sentiva. Sporgendosi in giù, parlava con un generale che le si era avvicinato. Alexei Alexandrovich si accostò ad Anna e le offrì cortesemente il braccio. «Andiamo, se vi fa piacere», disse in francese. Ma Anna stava ascoltando quel che diceva il generale e non si accorse del marito. «Anche lui si è rotto una gamba, dicono», diceva il generale. «Cose da non immaginarsi!» Anna si sporse in avanti per ascoltare. «Stiva! Stiva!» gridò il fratello. Ma il fratello non la sentiva. Essa fece di nuovo per andarsene. «Vi offro ancora una volta il mio braccio, se volete andare», disse Alexei Alexandrovich toccandole il braccio. Essa si scostò da lui con avversione e, senza guardarlo in faccia, rispose: «No, no, lasciatemi. Io rimango». I wish I had a window over the bay and a black horse grazing on the green knoll. day. I wish I had a well to draw my water from, and a warm log fire for when the summer is gone. I wish I had a window over the bay and a flock of white sheep to watch from where I lay. I wish I had a little boat bobbing on the deep and a big wooden table all laid out for tea. I wish I had a window over the bay and a dreamy-eyed cow to fill my milking pail. I wish I had a cockerel to raise me at dawn on the little bed to sleep in when the curtains are drawn. L'ufficiale portò la notizia che il cavaliere non si era ucciso, ma che il cavallo si era spezzata la schiena. Sentito questo, Anna si sedette di colpo e si coprì la faccia con il ventaglio. Alexei Alexandrovich vide che piangeva e non solo non riusciva a frenare le lacrime, ma nemmeno i singhiozzi che le sollevavano il petto. Egli la nascose con la propria persona, dandole il tempo di riprendersi. «Per la terza volta vi offro il mio braccio», disse dopo un certo tempo, rivolgendosi a lei. Anna lo guardava e non sapeva che dire. La principessa Betsy le venne in aiuto. «No, Alexei Alexandrovich, io ho accompagnato Anna e ho promesso di riaccompagnarla», si intromise Betsy. «Perdonatemi, principessa», disse egli, sorridendo cortesemente ma guardandola con fermezza negli occhi. «Ma vedo che Anna non sta del tutto bene e desidero che venga con me». Anna si voltò spaventata, si alzò docilmente e poggiò la mano sul braccio del marito. «Manderò qualcuno da lui, mi informerò e manderò da te a dirtelo», le bisbigliò Betsy. All'uscita dalla tribuna, Alexei Alexandrovich parlò come sempre con quelli che incontrava e come sempre Anna doveva rispondere e parlare. Ma essa non era in sé e camminava come trasognata al braccio del marito. «Si è ucciso o no? È vero? Verrà o no? Lo vedrò oggi», pensava. Sedette in silenzio nella carrozza di Alexei Alexandrovich e rimase in silenzio anche mentre uscivano dalla folla delle vetture. Nonostante tutto quello che aveva visto, Alexei Alexandrovich non si lasciava andare a considerare l'attuale posizione di sua moglie. Vedeva soltanto i segni esteriori. Vedeva che si era comportata in modo sconveniente e considerava proprio dovere dirglielo. Tuttavia gli era molto difficile non dire di più, dire soltanto questo. Aprì la bocca per dirle che si era comportata in modo sconveniente, ma senza volerlo disse tutt'altra cosa. «Però, come siamo tutti inclini a questi spettacoli crudeli? Io noto che cosa? Non capisco», disse Anna con disprezzo. Egli si offese e cominciò subito a dire quel che voleva. «Debbo dirvi», proferì. «Eccola la spiegazione», pensò lei ed ebbe paura. «Debbo dirvi che oggi vi siete comportata in modo sconveniente», le disse egli in francese. «In che cosa mi sono comportata in modo sconveniente?» disse lei ad alta voce, voltando di scatto la testa verso di lui e guardandolo dritto negli occhi, ma ormai non più con l'allegria di prima che celava qualcosa, ma con un fare deciso sotto cui a fatica nascondeva la paura provata. «Che cosa avete trovato di sconveniente?» ripeté lei. «La disperazione che non avete saputo nascondere per la caduta di uno dei cavalieri». Si aspettava che lei replicasse, ma lei tacque guardando davanti a sé. «Vi avevo già pregata di comportarvi in società in modo che nemmeno le malelingue potessero dir nulla contro di voi. C'era un tempo in cui io parlavo dei rapporti interiori. Ora non ne parlo più. Ora parlo dei rapporti esteriori. Voi vi siete comportata in modo sconveniente e io desidererei che ciò non si ripetesse. Adesso che su di lui incombeva la scoperta di tutto, niente egli desiderava tanto quanto che lei gli rispondesse come l'altra volta, in modo beffardo, che i suoi sospetti erano ridicoli e non avevano fondamento. Così spaventoso era ciò che sapeva, che adesso era pronto a credere tutto. Ma l'espressione del viso di lei, spaventato e cupo, adesso non prometteva nemmeno l'inganno. «Può darsi che mi sbagli. In tal caso vi prego di scusarmi». «No, non vi siete sbagliato», disse lei lentamente, guardando con disperazione il freddo viso di lui. «Non vi siete sbagliato. Ero disperata e lo sono ancora. Io ascolto voi e penso a lui. Io lo amo. Sono la sua amante. Non posso più resistere. Ho paura, vi odio. Fate di me ciò che volete». E rovesciandosi indietro in un angolo della carrozza, scoppiò in singhiozzi coprendosi il viso con le mani. Alexei Alexandrovich non si mosse e non cambiò la direzione rettilinea del suo sguardo, ma tutto il suo viso assunse a un tratto la solenne immobilità di un morto. Tale espressione non mutò per tutto il tempo del tragitto sino alla villa. Come in tutti i luoghi dove si raccoglie gente, così anche nella piccola stazione termale tedesca dove erano arrivati gli Scerbachi, la società si era, per così dire, cristallizzata alla maniera solita, in base alla quale ciascun membro assume un posto definito e immutabile. Come una particella d'acqua al freddo assume in modo definito e immutabile la forma di un cristallo di neve, esattamente allo stesso modo, nella stazione termale, ogni nuova persona che vi arrivava si fissava subito nel posto che le era proprio. Quando tutto questo fu fermamente stabilito, Kitty cominciò ad annoiarsi molto, tanto più che il principe era partito per Carlsbad e lei era rimasta sola con la madre. Non si interessava ai conoscenti, sentendo che da loro ormai non sarebbe più venuto nulla di nuovo. Per una qualità del suo carattere, nella gente Kitty supponeva sempre quanto può esservi di migliore, e ciò in particolare in quelli che non conosceva. Anche adesso, congetturando chi fosse l'uno e l'altro, quali rapporti intercorressero fra loro, Kitty si immaginava le persone più straordinarie e meravigliose e trovava conferma nelle proprie osservazioni. Fra queste persone, in modo particolare, la interessava una ragazza russa arrivata alle acque con una signora russa malata, la signora Stahl, come la chiamavano tutti. Madame Stahl apparteneva all'alta società, ma era così malata che non poteva camminare e soltanto in qualche rara bella giornata si faceva vedere alle acque in carrozzella. La ragazza russa accudiva Madame Stahl e inoltre, come aveva notato Kitty, si intratteneva con tutti i malati gravi, che alle acque erano molti, e si curava nel modo più naturale anche di loro. Questa ragazza russa, secondo le osservazioni di Kitty, non era parente di Madame Stahl e, nello stesso tempo, non era nemmeno un aiuto retribuito. Madame Stahl la chiamava Varenka e gli altri la chiamavano Mademoiselle Varenka. A parte il fatto che a Kitty interessava osservare i rapporti di quella ragazza con la signora Stahl e con le altre persone che lei non conosceva, Kitty, come sovente accade, provava un'inspiegabile simpatia verso Mademoiselle Varenka e dagli sguardi che si scambiavano sentiva di piacerle anche lei. Questa Mademoiselle Varenka non soltanto non era più nella prima giovinezza, ma era in un certo senso un essere senza giovinezza. Le si potevano dare 19 come 30 anni. Se si esaminavano i suoi tratti, nonostante il colorito malaticcio del viso, era piuttosto bella che brutta. Sarebbe stata anche ben fatta se non avesse avuto un corpo troppo secco e una testa sproporzionata per la sua media statura. Ma non doveva essere attraente per gli uomini. Assomigliava a un magnifico fiore, ancor pieno di petali, ma già sfiorito, senza profumo. Oltre a ciò, essa non poteva essere attraente per gli uomini anche perché le mancava ciò che era persino di troppo in Kitty, un fuoco contenuto di vita e la consapevolezza di essere attraente. Sembrava sempre presa da qualcosa su cui non poteva esservi dubbio e pareva perciò che non si potesse interessare di nulla al di fuori di questo. Quanto più Kitty osservava la propria sconosciuta amica, tanto più si persuadeva che quella ragazza era l'essere perfetto che lei immaginava e tanto più era desiderosa di farne la conoscenza. Thank you. Elsa ha galbato a letto Anna Karenina. Terzo anello ad alta voce. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.